Bentornati a Rock Legends su Radio RCS, l'onda veronese. Le frequenze le facciamo dire ai nostri ospiti. Silenzia. Sono 98.6 per la bassa veronese, zone della Lessinia, 101.5 per Verona città e rimanente provincia, 91.5 per la zona Lago di Garda e 94.7 per la Valpolicella. Radio RCS si può ascoltare anche in web streaming dal sito www.radiorcs.it. E dall'AOR degli anni 70 ed 80, in una parte dove ascolteremo i dischi live di alcune storiche formazioni hard rock degli anni 70, la prima canzone era Doctor Doctor degli UFO dal disco Strangers in the Night nel 1979. Band guidata ancora oggi da Phil Mogg e Pete Way, che può annoverare in quel periodo la presenza di Michael Schenker come giovane chitarrista. Che dire, Michael Schenker è un grandissimo chitarrista e tra l'altro in questo brano si sentono poi le sonorità, le armonizzazioni, il suono di batteria, l'uso del ride che prenderanno gli Iron Maiden e faranno un loro marchio di fabbrica poi in futuro. The Secret Inside è il titolo del vostro disco. Qual è il significato di questa frase? Allora, questo titolo ha un doppio significato. Infatti noi abbiamo scritto inside tra parentesi, in tra parentesi, side. Dunque, The Secret Inside significa il segreto all'interno. Infatti nella nostra copertina del CD c'è una foresta, un bosco. In fondo a questa foresta si vede una grande luce. E come... Avete visto la luce, insomma, ecco. No, dai. Diciamo che da intendere che ci sia qualcosa oltre il bosco da scoprire. E The Secret Side invece significa il lato segreto. È il nostro lato segreto, in quanto le canzoni sono tutte autobiografiche. Certo. E nel senso che sono basate sulla nostra esperienza, su cose che abbiamo vissuto, e quindi ci rispecchiano moltissimo. E questo è il nostro lato segreto che noi svegliamo nel nostro CD. Va bene, nel 1973 Uriah Heep, nella formazione storica, effettuano un tour mondiale catturato al suo meglio nel disco live di quell'anno, che si rivelerà uno dei dischi più importanti per la band inglese. Da questo album la canzone Sunrise. Would you welcome please England's own Uriah Heep. Sunrise and a new day's breaking through. The morning of another day without you. As the hours roll by, no one there sees me cry except the sunrise. The sunrise and you. Tired eyes drift across the shore, looking for love and nothing more. The sunrise and you. Melodia e potenza per una band che, nonostante sia meno citata di altre, è ancora attiva e suona in giro per il mondo. Un vostro parere su questa grande formazione? Ah, che dire, musicisti di altissimo livello che, dato che sono ancora in tour e la band è attiva e suona in giro ovunque, non si può perdere l'occasione per vederli in live. Vostre influenze musicali, quali sono e quanto incidono nella scrittura delle canzoni? Moltissimo. Dunque, noi veniamo da influenze parecchio diverse. Infatti io vengo dal pop, rock, blues, mentre i ragazzi vengono più dal metal. E si sente proprio nelle nostre canzoni il connubio fra queste influenze. E infatti il risultato penso sia molto interessante. Chiudiamo allora la seconda parte con i Thin Lizzy. Nel 1978 la band di Phil Lynott incide Live and Dangerous, strepitoso disco dal vivo, dove la band anglo-irlandese dà il meglio di sé. Da questo album il brano Emerald. Dopo la pubblicità saremo ancora in studio con i Silenzia, che ci faranno ascoltare sei brani del disco The Secret Inside. Rimanete all'ascolto. Is there anybody here with any Irish in them? Is there any of the girls that like a little more Irish in them? It's a little called Emerald. Down from the glen came the marching men with their shields and their swords to fight the fight they believed to be right. Overthrow the overlords to the town where there was plenty. They brought plunder, sword and flame. When they left the town, it was empty.